2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter, utilizziamo queste due piattaforme per annunciare i temi di cui ci occupiamo settimana dopo settimana, ma anche per ricevere vostre segnalazioni, suggerimenti, critiche, applausi, fischi, eccetera, eccetera. Potete naturalmente utilizzare anche l'email 2024@radio24.it. Dunque, partiamo da un tema che ci sta particolarmente a cuore, lo sapete, quello della rete internet. Oggi non dobbiamo costruire autostrade, ma dobbiamo costruire reti in fibra ottica. Questo è il futuro di tutti i paesi, naturalmente anche noi dobbiamo porre attenzione su questo tema. Oggi per fare qualsiasi cosa da un'azienda, ma anche pensate ad un'abitazione, non possiamo pensare che non ci sia internet. È un po' come la corrente elettrica, ci deve essere la corrente elettrica, il bagno, l'acqua, il riscaldamento, magari anche l'aria condizionata, ma soprattutto e sempre più spesso internet. Questo riguarda tutte le aziende. Allora, sapete che Metroweb è da qualche mese sotto i riflettori per il possibile interesse mostrato da varie aziende di telecomunicazioni, a partire da Telecom Italia, passando per Vodafone, che ha recentemente scritto all'antitrust segnalando che se Telecom si comprasse Metroweb ci sarebbe un problema di competizione sul mercato. In un paese normale non bisognerebbe nemmeno scrivere, sarebbe l'antitrust che si alzerebbe dalla sedia e direbbe no, questa cosa non si può fare, non si deve fare. Allora, Metroweb è una società molto interessante, molto ben gestita e anche un modello che si potrebbe utilizzare, che ha reti in fibra ottica. La più famosa, la più diffusa e capillare è quella di Milano. Abbiamo parlato anche recentemente dei dati molto interessanti, lusinghieri, dell'uso che a Milano si fa della rete internet, proprio perché la rete è capillare. Sicuramente questo è un motivo, esiste la rete, c'è la disponibilità della rete e la gente la usa. Non penso che a Milano siano particolarmente più intelligenti e tecnologicamente più avanzati di molte altre città italiane, ma esiste l'infrastruttura, quindi la gente la usa, e recenti dati ci hanno detto che viene utilizzata il doppio rispetto, internet viene utilizzato il doppio rispetto ad altre, alla media italiana. Allora, perché in molti sono interessati a Metroweb? Perché mentre proseguono gli investimenti sul rame, e ormai sono investimenti decisi qualche tempo fa, e sulla tecnologia FTTC, Fiber to the Cabinet, cioè la fibra che arriva fino all'armadio di strada e poi si prosegue con il rame fino a casa, quindi sicuramente si accorcia il rame che da casa nostra arriva fino al primo armadio di casa, al primo armadio di strada, ma pur su quella vecchia infrastruttura si fonda questa tecnologia. Allora, mentre accade tutto ciò, e questi sono investimenti che sta facendo Telecom Italia e Fastweb, e anche Vodafone ha annunciato di utilizzare questa tecnologia, ma affittandola da Telecom Italia. Mentre accade tutto ciò, ci si rende conto, e Telecom è la prima a rendersene conto, che non è più rinviabile un progetto di medio e lungo periodo per investire in fibra ottica fino alle case e alle aziende, quindi una rete capillare che ci prepari per il futuro. Questa è una cosa che diciamo oramai da almeno 2024 con alcuni dei nostri esperti da almeno 3, 4, 5 anni. E mi fa piacere che oggi ci siano altre persone che cominciano a unirsi a questo piccolo coro. Allora, quindi Metroweb è sicuramente un'infrastruttura che è nata proprio per fare questo a servizio delle aziende di telecomunicazioni, quindi una rete in fibra passiva aperta a tutti gli operatori a parità di condizioni, e questo è quello di cui ha bisogno il mercato per funzionare. Ed è proprio un modello di cui avremo bisogno, al quale il governo sta pensando, tanto che Franco Bassanini ne ha recentemente parlato anche all'interno del governo, ne ha parlato anche con gli operatori. Bassanini è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, che sta sondando il terreno. Perché? Perché la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe avere un ruolo cardine, anzi dovrebbe avere un ruolo cardine all'interno di questa infrastruttura, un'infrastruttura di questo tipo che ha un ritorno certo dell'investimento nel medio-lungo periodo, quindi sarebbe anche un business per la Cassa Depositi e Prestiti e naturalmente per tutto il sistema paese. Cosa che abbiamo detto più volte, che dicono molti esperti di mercato, l'importante è che nella società, se venisse poi aperta alla partecipazione delle aziende di telecomunicazioni, le quote siano molto piccole e numerose. Quindi non sarebbe sicuramente auspicabile una governance di poche grosse società che renderebbero più difficile creare un mercato libero e competitivo. A tal proposito cito, magari lo sentiremo anche in futuro, è interessante quello che ha detto recentemente l'amministratore delegato di Wind, Massimo Ibarra, che si è detto disponibile a conferire Infostrada all'ipotetica nuova società della rete. Ibarra è sempre stato particolarmente disponibile nei confronti di questa ipotesi di una società unica della rete, quindi è sicuramente una voce interessante. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda le monete virtuali. Da questa settimana Microsoft ha deciso di accettare, per il momento solo negli Stati Uniti, pagamenti in Bitcoin negli store digitali, quindi nei negozi digitali Windows, Windows Phone, Xbox Games, Music e Video. Per ora è possibile acquistare solamente beni digitali, quindi software, videogiochi, musica, eccetera, eccetera. Comunque è sicuramente una notizia importante per tutto il movimento che supporta le monete digitali e naturalmente Bitcoin è la più nota e più famosa. Digital News. Una delle cose che denunciamo spesso è la scarsità di contenuti in alta definizione nelle trasmissioni in digitale terrestre e su satellite gratuito. L'unica vera piattaforma in HD con molti contenuti in HD al momento è Sky in Italia. Allora, ci sono milioni di TV, di televisori che possono vedere contenuti in alta definizione, ma pochi contenuti. La Svizzera, dall'esempio un po' in tutta Europa, ha deciso che la piattaforma per l'HD sarà il satellite e solo il satellite, c'è poco spazio, poca banda sul digitale terrestre. Entro il 29 febbraio 2016 tutti i canali su satellite gratuito saranno solo in alta definizione. Digital News. Però visto che la corsa non si ferma e ci si deve preparare anche per il 4K, oggi non ci sono ancora contenuti, praticamente sono pochissimi contenuti in 4K, ma qualcosa si muove. Vimeo.com ha deciso di dare la possibilità di caricare film e filmati video in 4K che gli utenti potranno poi scaricare se hanno un televisore in Ultra HD o qualsiasi altro strumento che può visualizzare video in 4K. Per ora niente streaming perché, secondo Vimeo, c'è troppa poca banda per supportare uno streaming in 4K. Digital News. Nokia, quella che è rimasta in Finlandia e che tra le altre cose produce servizi, ha annunciato che ha pubblicato su Play Store di Google l'applicazione di mappe Here. Ora è disponibile in 118 paesi. La pubblicazione su Apple Store, su App Store di iOS, arriverà nel corso del 2015. Digital News. Parliamo di una società che si chiama Other 3 Billion, ovvero O3B, gli altri 3 miliardi, facendo riferimento agli altri 3 miliardi di persone che non sono connesse alla rete internet. Fra qualche ora dalla Guyana francese lancerà 4 satelliti della propria costellazione di 8 satelliti. Questa società punta ad offrire connettività di internet nei paesi dove la rete è poco diffusa e sicuramente in questi casi il satellite può essere un'alternativa, ma è un sistema pensato appositamente per quei paesi, satelliti a orbita bassa e quindi nulla hanno a che vedere con i nostri satelliti che stanno invece, i geostazionari, che stanno invece a 36.000 km di distanza. Digital News. Entro la fine del 2015 lo Stato americano dell'Iowa permetterà ai propri cittadini di virtualizzare su uno smartphone la patente di guida. Quindi basterà scaricare un'app che il Dipartimento dei Trasporti dello Stato sta realizzando e poi la polizia controllerà che il documento sullo smartphone sia conforme alle regole e comunque sia regolare. Si sta pure pensando di poter revocare la patente in remoto nel caso una persona dovesse essere condannata o coinvolta in attività illegali. Digital News. Un'ultima notizia riguarda il Wi-Fi. Prima è partita Tiscali, una notizia che non abbiamo dato la scorsa settimana, ma che diamo questa settimana, quindi ci mettiamo in pari. Poi è arrivata anche Fastweb questa settimana. Le idee sono simili, molto semplici e molto utili. Allora, Tiscali è partita con un'applicazione, un servizio che si chiama Social Wi-Fi, e Fastweb si chiama Wow-Fi. Si tratta di mettere in condivisione la propria rete Wi-Fi in cambio della possibilità di poter usare quella di altri clienti dello stesso operatore quando ci si sposta. Quindi, giusto per fare un esempio, per essere molto semplici, se uno è un cliente di Tiscali potrebbe aderire a Tiscali Social Wi-Fi, mette a disposizione la propria rete Wi-Fi, una piccola porzione della rete Wi-Fi, e quando si sposta in un'altra città, in un altro quartiere all'interno della stessa città o dello stesso paese, può, trovandosi di fronte in presenza di una rete Tiscali Social Wi-Fi, utilizzare quella di quella persona che la mette in condivisione. Sicuramente un'idea interessante. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Adesso parliamo di Google News. Alcuni di voi, immagino e spero molti di voi, sanno che Google News è un aggregatore di notizie che mette insieme in un'unica pagina i titoli e brevi riassunti di notizie che il motore di ricerca prende da vari siti di notizie, quotidiani, blog. Il motore di ricerca naviga nella rete e trova queste notizie, le mette tutte insieme in un'unica pagina, quindi uno ha una visione di quello che i principali media di un paese offrono in quel momento, ora per ora, con un aggiornamento continuo. Se uno clicca su un titolo di una notizia, finisce nella pagina del sito di notizie. Quindi se clicca su una pagina che è linkata ad esempio al Sole 24 Ore, finisce sul sito del Sole 24 Ore. Però, visto che il traffico che Google genera, molte sono le persone che vanno su Google a cercare informazioni normali nel motore di ricerca tradizionale, ma anche in questa sezione particolare di notizie, sono tante le persone che cliccano sui link e finiscono sui vari siti in giro per la rete internet. Allora, visto il traffico che è in grado di generare Google verso i siti che vengono linkati, sicuramente questa è una fonte molto importante di traffico per molti editori. E visto che i soldi su internet si fanno prevalentemente con traffico legato alla pubblicità, più traffico c'è, più pubblicità si fa, sicuramente questa è una fonte di ricavi per molti editori molto interessante. Però, alcuni editori in vario modo, in vari gradi, in modo diverso, regione per regione, in giro per l'Europa soprattutto, dicono che Google dovrebbe pagare per aggregare queste notizie, cioè dovrebbe pagare una quota agli editori per utilizzare queste varie fonti e metterle tutte insieme. Però naturalmente dalla parte opposta si dice: ma come? Questa è una fonte per voi di traffico e non è giusto che si paghi. Naturalmente la politica in alcuni casi fa proprie le richieste degli editori, e è accaduto recentemente che in Spagna è stata approvata una legge che entrerà in vigore in gennaio, secondo la quale chi mette assieme, aggrega notizie, deve riconoscere un compenso agli editori, è obbligato a riconoscere questo compenso. Allora, Google ha reagito in modo piuttosto netto e ha detto: chiudiamo questo servizio in Spagna. Ecco i motivi in estrema sintesi che ci ha spiegato Simona Panseri di Google Italia. La legge spagnola prevede l'obbligo irrinunciabile anche per gli editori di chiedere un pagamento agli aggregatori di notizie a fronte della pubblicazione di anche piccoli estratti di testo dei loro contenuti, quelli che normalmente siamo abituati a chiamare snippet. Dal momento che Google News non ha pubblicità e quindi non produce ricavi, il modello per noi non è sostenibile. E quindi ci siamo a malincuore trovati nella condizione di dover decidere di chiudere Google News in Spagna. Questo vuol dire che non si potranno leggere le notizie dei media spagnoli da qualsiasi parte del mondo, o questo vale solo per gli utenti spagnoli? i media spagnoli, gli editori spagnoli verranno rimossi da Google News. Come conseguenza l'edizione spagnola, cioè news.google.es, sarebbe vuota e quindi viene chiusa. Attenzione però che stiamo parlando di Google News e non in assoluto dell'indicizzazione dei contenuti, parliamo dell'aggregatore di notizie. Quindi nel caso invece del motore di ricerca tradizionale io potrei trovare ad esempio un articolo del País. Nel momento in cui dovessi fare una ricerca che tra i suoi risultati può portare un articolo di un editore come appunto uno dei risultati, lo troverò. In quel caso dovreste pagare secondo la legge spagnola? Dopo la pubblicazione della legge, il governo spagnolo ha emesso un comunicato stampa nel quale chiariva in modo abbastanza inequivocabile che si parlava di aggregatori di notizie. Se non esiste pubblicità, perché esiste Google News? Cioè, qual è il vantaggio vostro? C'è una ragione precisa per la quale Google News è nata e forse non è nemmeno così nota. Immediatamente dopo l'11 settembre, uno dei nostri ingegneri che risiedeva negli Stati Uniti, che risiedeva a New York, ma in quel momento era in viaggio per lavoro e quindi non riusciva a tornare a casa, perché come sappiamo ci sono stati svariati giorni di difficoltà nei movimenti, si è reso conto che al tempo la ricerca per il termine World Trade Center non portava nessun risultato che parlasse dell'attacco terroristico. Questo anche perché al tempo, stiamo parlando di svariati anni fa, i diversi siti sul web erano come isole indipendenti. E si è posto la domanda se io, che sono un ingegnere e ho una capacità di effettuare le ricerche senz'altro superiore a quella del normale utente, fatico a trovare questo tipo di informazione, com'è possibile per il normale cittadino confrontare diverse fonti di notizie su un tema? Non sarebbe un valore per l'utente la possibilità di avere punti di vista diversi su uno stesso tema facilmente disponibili? Ed è da lì che è nata l'idea di sviluppare Google News. Google News oggi è disponibile in 70 diverse versioni, in 35 lingue, ed è estremamente apprezzato dagli utenti proprio per questa sua caratteristica di indicizzare dalle fonti più riconosciute, nel senso i quotidiani nazionali, i grandi media i cui marchi sono noti a tutti, a realtà locali e anche piccoli blog. E tuttavia voi non ci fate soldi, e quindi cosa ci fate? Analisi di quello che la gente sceglie, ad esempio? Direi che il fatto di analizzare che cosa le persone consultano dipende sempre dal fatto che le persone possano o meno consultare un sito essendo loggati, e nel momento in cui un utente non è loggato naturalmente noi non sappiamo che tipo di contenuti va a consultare. L'obiettivo in realtà è sempre quello di favorire la possibilità di dare agli utenti una risposta che è la risposta migliore al tipo di esigenza che sta formulando nel momento in cui effettua una domanda, ovvero sia fa una ricerca sul motore di ricerca. E questo è quello che è successo in Spagna, e direi un piccolo esempio di quello che potrebbe succedere quando si legifera in modo magari emotivo, in modo veloce, ottenendo quale risultato? Beh, che gli editori non guadagneranno nulla da un servizio come questo, anche perché esistono altri aggregatori di notizie. Vedremo se in Spagna acquisteranno più spazio, visto che Google si è ritirato dalla gara, ma diciamo che gli editori molto probabilmente non guadagneranno nulla, e i cittadini spagnoli vedono venir meno un servizio utile. Quindi direi che non sia stata una grande idea. Certo, si può discutere di una soluzione, di un equilibrio per condividere alcuni tipi di ricavi, ma probabilmente questa non è la soluzione. Va detto, ma l'abbiamo detto in altre occasioni, io condivido l'opinione di molti esperti che ritengono opportuno trovare soluzioni a questi, non so se definirli problemi o comunque cambiamenti che si sono presentati grazie o a causa della rete internet, soluzioni che devono essere almeno europee, condivise in tutta Europa. Stessa cosa vale anche per quando si parla di tasse, a parte che le grandi aziende della rete dovrebbero essere trattate come tutte le altre anche in termini di tasse. Non si capisce perché l'Alitalia, che ha tutti gli aerei registrati in Irlanda, possa farlo tranquillamente. Nessuno obietta che appunto siano registrati in un altro paese, mentre quelli dell'Air France sono registrati in Francia, quelli della Lufthansa siano registrati in Germania. Invece ci si accanisce contro le aziende della rete, che giustamente devono pagare le tasse dove fanno ricavi, ma ci sono leggi che attualmente vengono rispettate. Si possono cambiare le leggi, ma vanno fatte leggi a livello europeo, e sicuramente, ripeto, come dicono molti esperti, queste aziende devono essere trattate come tutte le altre aziende, sia che si parli di tasse, sia che si parli di uso dei dati. Sicuramente i problemi ci sono, soprattutto per quanto riguarda la grande mole di dati che queste aziende sono in grado di raccogliere, gestire e analizzare, ma i problemi vanno affrontati in modo coordinato e senza emozioni. C'è anche da dire che, lo ricordo sempre quando parliamo di questo tema, c'è in corso una trattativa molto profonda, molto approfondita su un accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, e sicuramente alcune delle cose che stanno succedendo anche nei confronti delle grandi aziende della rete internet, Google in primis, ma non solo nei confronti di Google, sicuramente risentono anche di questi rapporti. Vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi, anche quando cambierà la presidenza dell'Unione Europea, visto che alla fine dell'anno termina quella italiana, che da questo punto di vista non ha conquistato quasi nulla. La Lettonia prenderà il posto dell'Italia a partire dal primo di gennaio. C'è anche il rischio, questo l'ha scritto una persona sul sito della BBC che condivido, che a forza di normare in modo magari diverso in Europa, da paese a paese, le cose che succedono sulla rete internet, si creino situazioni molto diverse tra Stati Uniti, dove sostanzialmente molte cose sono libere, e Europa, e poi ancora più grave tra vari paesi d'Europa. Quindi magari in alcune parti d'Europa non si possono fare certe cose, negli Stati Uniti si possono fare, con poi un circolo virtuoso da una parte e un circolo vizioso dall'altra. Quindi bisogna pensare bene a quello che si sta facendo, perché poi i risultati sono quelli che abbiamo visto in Spagna, dove tutti perdono, cittadini ed editori. Ci fermiamo per alcuni minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Riprendiamo tra poco, parleremo di servizi per la mobilità, un settore, quello soprattutto all'interno delle città, dove stanno cambiando molte cose, e sicuramente la economia delle applicazioni e gli smartphone sono uno degli ingredienti fondamentali di questi cambiamenti. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Quindi 2024@radio24.it. Vi consiglio come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Potete utilizzare le applicazioni che trovate sugli smartphone, oppure anche software che vi permettono di gestire, organizzare i vari podcast, perché certamente noi sponsorizziamo il nostro podcast, ma ci sono altre trasmissioni sia di Radio 24 ma anche di altre radio in giro per il mondo, quindi non solo di radio italiane, che potete scaricare in podcast e gestire un vostro palinsesto con quello che preferite e scegliete, naturalmente partendo da Radio 24, ma poi facendo un menu anche di altri ingredienti. Adesso c'è un podcast molto noto, di cui si parla molto, che pare sia un successo nazionale negli Stati Uniti. È un podcast in lingua inglese, si chiama Serial, sta facendo un grande successo, tanto successo ha avuto su internet che la BBC ha deciso di mandarlo in onda in radio. Quindi di solito le cose, almeno fino ad oggi, ancora oggi, molte cose nascono alla radio e finiscono su internet. Alcune cose nascono su internet e rimangono su internet, sono anche grandi successi su internet. Sono pochissimi casi, almeno che io sappia, di grandi successi in internet che poi finiscono in radio. Questo è un esempio di come le cose stanno cambiando. Le cose stanno cambiando anche nel settore della mobilità. Sicuramente si coniuga molto bene lo smartphone, che è uno strumento mobile per antonomasia, si chiama proprio mobile phone, con tutti i vari servizi di trasporto. Uno si muove, si sposta da un punto all'altro e sicuramente lo smartphone può essere un sussidio per molte informazioni. Allora, tra poco parleremo di taxi e di car sharing. Due cose che stanno cambiando. Sicuramente il car sharing fino a qualche tempo fa quasi non esisteva, oggi sta diventando un fenomeno, un grandissimo successo, proprio grazie alle applicazioni, proprio grazie agli smartphone. Il mondo dei taxi, con una lentezza che è nota a tutti i cittadini, anche per motivi regolamentari, legislativi, sta cominciando a cambiare. E non c'è dubbio che l'arrivo di Uber e tutte le polemiche che sono seguite ha scatenato un interesse verso le applicazioni, perché uno dei punti di forza di Uber è sicuramente questa applicazione molto ben fatta, con la quale uno può chiamare un'automobile, vederla arrivare su una mappa, poi dare il voto all'autista, fare tutta una serie di altre cose fatte molto bene con intelligenza. Quindi una delle cose sicuramente interessanti, bisogna sempre cercare di guardare le cose positive e coglierle per fare business, riproporre, ripensare dei business, sicuramente è l'applicazione. Stanno nascendo e sono nate negli ultimi tempi alcune applicazioni che servono proprio per chiamare il taxi. Uber si rivolge ad un business diverso dal mondo dei taxi, ma parallelamente il mondo dei taxi sta comprendendo l'importanza delle applicazioni. Anzi, io dico sempre che se tutti i tassisti si mettessero assieme e facessero delle belle applicazioni, Uber scomparirebbe domattina, perché non ci sarebbe chance. Ci sono migliaia di taxi in tutta Italia e pochissime macchine di Uber, se ci fosse un servizio analogo. Qualcosa comunque sta cambiando. Questa settimana sono stato a SMAU Napoli, ho visto un po' di effervescenza anche dal punto di vista digitale nella città di Napoli. Sapete che SMAU è una piattaforma itinerante, quindi questa settimana c'era la tappa conclusiva del 2014 a Napoli. C'è un servizio nato a Napoli, attivo in modo sperimentale nella città di Napoli, si chiama DigiTaxi, che ha vinto tra l'altro il premio, uno dei premi ICT a SMAU. Abbiamo parlato di questo servizio con Michele Palmieri, che è il fondatore di DigiTaxi. Dunque, in effetti si scarica l'applicazione sul proprio smartphone dell'utente e il tassista fa altrettanto, e l'app consente di poter cercare e chiamare un taxi mettendo in comunicazione direttamente utente tassista. Si basa in effetti sulla geolocalizzazione dell'utente e delle vetture che sono nella zona. La richiesta del taxi tramite il server viene trasferita al primo taxi disponibile più vicino alla posizione dell'utente. Ecco, l'innovazione è fondamentale è questa, perché elimina la funzione attuale del call center su cui si fondono i radiotaxi, in cui lei fa una telefonata alla centrale radio e l'operatore trasferisce la sua richiesta al tassista più vicino a lei. E con il sistema DigiTaxi il tutto avviene in tempo reale tramite server e connessione ad internet. Questo sistema in effetti le dà la possibilità prima di vedere sullo schermo del proprio smartphone quali sono le vetture in zona più vicino a lei. Secondo, le consente di vedere sempre sul proprio schermo la vettura che si avvicina, che si sta avvicinando a lei, quindi se lei è in casa, in ristorante o in albergo, uscirà quando avrà visto la vettura che è arrivata. Non solo, ma dopo l'accettazione della chiamata da parte del tassista, le escono i dati del tassista, nome, cognome, numero di licenza. In futuro abbiamo previsto anche di mettere la foto, quindi rende anche il sistema più trasparente, perché oggi se lei fa una telefonata a Radio Taxi non sa chi viene, come si chiama e che numero di licenza, e se è un tassista che numero di licenza ha. Naturalmente esistono altre applicazioni che fanno più o meno le stesse cose, dipende dalle applicazioni, comunque sostanzialmente altre applicazioni che fanno quello che propone DigiTaxi, che ricordo è attiva in modo sperimentale a Napoli. Ci sono altre applicazioni, ma quello che vorrei trasferirvi questa sera è, da un lato, quello che sta cambiando, quindi la possibilità e le possibilità che stanno nascendo grazie alle applicazioni anche in questo settore, poi non vorrei che tutti si focalizzassero solo sul mondo dei taxi, stiamo parlando del taxi e tra poco del car sharing, sono due esempi, ma quello che spererei che a molti scattassero delle scintille per capire quello che si può fare. Questi sono esempi, e sicuramente quello della mobilità, taxi e car sharing, sono due settori dove gli smartphone stanno cambiando e cambieranno moltissimo le cose, ma lo stesso principio, gli stessi principi possono essere poi adattati ad altri settori. Pensate però, se ci fosse una unica applicazione nazionale o un'applicazione che riuscisse ad integrare tutte le varie applicazioni dei taxi. Uno si sposta da una città all'altra, ma pensate anche solo all'interno di una città. Oggi non c'è efficienza nel sistema perché esistono tanti radiotaxi, ognuno pensa per sé. Magari sotto di me c'è il radiotaxi blu e io chiamo il radiotaxi rosso. Se ci fosse un unico call center, quello sarebbe un sistema efficiente. Stessa cosa vale per le applicazioni. Io dovrei avere magari 4 o 5 applicazioni e interrogare tutte queste applicazioni. Ci vorrebbe un'applicazione che integrasse tutte le varie applicazioni e rendesse efficiente il sistema e mi fornisse l'indicazione dell'auto che si trova più vicino a me. Allora, questa applicazione non esiste, non mi risulta che esista nel mondo dei taxi, esiste invece nel mondo del car sharing. Il car sharing è un grande successo in alcune città italiane, soprattutto a Milano e a Roma. Un'applicazione che è nata recentemente si chiama Carsh, che sta per car sharing, però è un'abbreviazione di car sharing. Carsh, molto interessante, molto utile tra l'altro, ma anche qui magari non siete interessati al car sharing, ma quello che è importante è il principio e il modo intelligente con cui è stata pensata questa applicazione. Ne abbiamo parlato con Luca Carta, che è uno dei fondatori di Carsh. Carsh nasce il 22 settembre del 2014 e viene lanciata in una data molto particolare, ovvero al termine della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è un progetto portato avanti dalla Commissione Europea in relazione al loro programma Do the Right Mix, quindi identificare tutta una serie di attività e azioni che portano avanti la sostenibilità in tutte le sue forme. Carsh è stata riconosciuta comunque come una delle azioni iniziative di Do the Right Mix e quindi ha avuto anche un successo, diciamo, di base che ha permesso di creare un buzz, quindi un interesse intorno alla notizia. Per questo motivo ci sono stati anche dei piccoli articoli interessanti in sezioni di tecnologia, motori e natura da parte di ANSA, e quindi quando scrive ANSA tutti gli editoriali si muovono e quindi insomma c'è un bel buzz comunque di notizia, come dicevo. Che cos'è Carsh? Carsh è essenzialmente una piattaforma che permette di visualizzare in un'unica applicazione tutti i servizi di car sharing in Italia. non solo visualizzare i servizi, quindi vedere in un'unica mappa tutte le macchine che possono essere appunto prenotabili da parte di un soggetto, ma anche effettuare la prenotazione diretta sulla macchina desiderata. Perché CarShow utile? Perché a colpo d'occhio, anziché aprire 3, 4, 5 servizi di car sharing, vedo tutte le soluzioni a portata di mano. Posso valutarle sulla base della vicinanza, criterio principale, quindi per risparmiare tempi, oppure posso valutarle sulla base dei costi. E quindi appunto il mix risparmio di tempi, risparmio di costi, significa utilità verso l'utente nell'utilizzare l'applicazione. CarShow al momento è attivo in 11 città. Chiaramente le città di maggiore interesse sono Milano, Roma e Firenze, in cui ci sono i servizi di car sharing più avanzati, ma molto importante per la nostra applicazione è la diffusione in tutto il territorio italiano. Diffusione in tutto il territorio italiano che sarà permessa ancor meglio attraverso l'integrazione del circuito ICS, quindi Istituto Car Sharing, che è il primo car sharing che è stato creato in Italia da circa 15 anni. Quindi mi stai dicendo che già oggi in 11 città italiane c'è, se non proprio un servizio diffuso e di grande successo di car sharing, comunque c'è un accenno di car sharing, che comunque è un risultato magari poco conosciuto, che in 11 città italiane ci sia car sharing. Esatto. In Italia per una volta possiamo dire che siamo all'avanguardia da questo punto di vista, essenzialmente per due motivi che fanno sì che il car sharing sia vincente. Noi italiani siamo innamorati di due cose, dell'auto e dello smartphone. Questa è la combinazione vincente che fa sì che in Italia ci si è affezionati subito a questo nuovo realtà che da settembre del 2013 è arrivata a Milano e si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia. Poi ti chiedo altre cose su CarShow, però una considerazione su questo successo che tu ci hai spiegato essere la combinazione di questi due fattori. Ci dai un'idea di quanto sta crescendo, almeno nelle grandi città, il car sharing? Sì, possiamo fare dei conti spannometrici di come sta crescendo il car sharing. Diciamo che i servizi di car sharing partono, come dicevo, a settembre 2013. Oggi, dicembre 2014, i numeri si aggirano intorno ai 400.000 registrati in Italia. Basti pensare che il vecchio modello di car sharing a punti fissi in 15 anni ha fatto 50.000 utenti, quindi sono numeri che sono davanti agli occhi di tutti, e a differenza del mercato dell'auto che crolla, il mercato del car sharing cresce, e questo per una volta possiamo evidenziare l'attitudine dell'italiano a evolversi, anzi a essere best practice in Europa. Senti, l'applicazione CarShow, a mio modo di vedere, ha una grande utilità, soprattutto quando ci si sposta da una città all'altra. Quindi se si cambia città e magari si cambia servizio di car sharing, non necessariamente uno deve conoscere la marca, il nome del car sharing dell'altra città, ma con un'unica applicazione può utilizzare il car sharing ovunque. Devo però essere iscritto ai vari servizi di car sharing? Se siamo a Milano, cito Enjoy, Car2Go, Twist, potrei citarne anche alcuni altri. Diciamo, l'applicazione presenta più varianti per poter utilizzare i vari servizi di car sharing. Tuttavia, per poter effettuare una vera e propria prenotazione, io devo collegare gli account dei singoli servizi e quindi utilizzare direttamente CarShow. Dicevamo utile perché è diffusa in tutta Italia, quindi io sono a Milano, mi sposto a Napoli, posso conoscere quali sono i servizi di car sharing, quindi elemento primario è la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, quindi mostrare all'utente che ci sono delle soluzioni alternative all'auto privata. Questo è il vero obiettivo di CarShow. In questo modo facciamo conoscere nuovi servizi e l'utente quindi dice: sto a Napoli per un mese, perfetto, mi abbono al servizio di car sharing, lo faccio grazie a CarShow, con la quale magari ho determinate agevolazioni, costo di registrazione è pari a zero o agevolazioni successive. Senti, secondo te quali saranno le evoluzioni di un servizio di questo genere? Poi ti chiedo anche come fate i soldi, però prima dacci un po' un'idea di come potrebbe evolvere un servizio di questo tipo. Possiamo dire che i risultati sono ottimi. Su Milano ci sono circa dalle 1700 a 1800 vetture, un numero in continua crescita. L'evoluzione sarà portata, a mio avviso, dall'avvento delle macchine elettriche. Le macchine elettriche che tendenzialmente hanno una gestione della flotta un po' più complicata dovuta al fatto della ricarica, ma problema in via di risoluzione, ma soprattutto le macchine elettriche hanno un costo più basso. Quindi, a mio avviso, il car sharing sta avendo successo, ma l'evoluzione verrà portata da una diminuzione graduale dei prezzi, dalla nascita di pacchetti che permetteranno appunto a studenti, lavoratori di utilizzare al meglio ancora quindi l'auto del car sharing e sostituire veramente non solo la seconda auto in una famiglia, ma anche la prima auto, quindi la sostituzione dell'auto privata nella sua totalità. Sì, tu dici un costo di gestione per il gestore del car sharing, perché se andiamo a guardare il costo di listino, gli ascoltatori potrebbero dire no, le auto elettriche costano ancora di più. Diciamo sia un costo di gestione inferiore da parte dell'operatore di car sharing, che si riflette su un costo minore per l'utilizzatore, quindi i servizi attuali variano tra i 0,25 e i 0,29 centesimi al minuto per l'utilizzo. Un strumento elettrico, si cita l'esempio di EQ Sharing, operatore presente su Milano, che costa 0,13 centesimi al minuto. I prezzi con le macchine elettriche, magari un po' più diciamo di portata più ampia, costeranno tra i 15 e i 20 centesimi al minuto, e questo insomma la leva di prezzo è importante anche per stimolare l'utente all'utilizzo. Questa è la nostra versione integrale di 2024 in versione podcast, con tutte le nostre interviste in versione estesa ed integrale. Riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di Carsh, un'applicazione gratuita che può essere scaricata sul vostro smartphone per utilizzare i servizi di car sharing. In molte città italiane, sono 11 le città italiane dove esiste un car sharing, sicuramente le città dove ci sono più automobili, pensate che ci sono circa 2000 automobili condivise in una città come Milano, uno le cerca con lo smartphone, la trova e alcune si aprono addirittura con lo smartphone oppure con una tesserina, apri l'automobile, utilizzi l'automobile, la usi per 10 minuti, 15 minuti, un'ora, quel che l'è. Paghi tramite smartphone e carta di credito e la macchina poi la lasci dove desideri, si possono lasciare ovunque queste automobili e il prossimo cliente prende l'auto, e questo è un sistema e una modalità per la mobilità sostenibile sicuramente molto intelligente. Ne stiamo parlando con Luca Carta, che è uno dei fondatori di Carsh. Carsh è scritto car come l'automobile, SH che sta per sharing, Carsh. Dunque, come fanno i soldi però quelli di Carsh? Diciamo che obiettivo primario, come dicevo prima, diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Chiaramente obiettivo nostro è crescere. Quando gli utenti saranno rilevanti, si potranno fare tante politiche, soprattutto in concerto con gli operatori, che non prevederanno alcun costo aggiuntivo per l'utente, questo elemento principale, ma fare accordi con gli operatori che permettano appunto di portare nuovi clienti ai servizi di car sharing e quindi ottenere delle remunerazioni da parte degli operatori, che possono essere sotto forma di nuovi clienti registrati, fee di prenotazione o altri elementi. In ogni caso Carsh si configura come un aggregatore, e quindi il modello a lungo termine è quello dell'aggregatore tipo, che può essere il vola gratis in ambito aerei. A questo punto ci vorrebbe l'aggregatore anche per tutti i servizi taxi, ma visto che le applicazioni dei taxi, quello è un mondo che si muove un po' più lentamente, invece nel car sharing c'è stato un vero e proprio boom, un grandissimo successo. Se uno sta a Milano vede queste automobili molto spesso, le automobili del car sharing. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso parliamo di pagamenti digitali con Angelo Meregalli, che è General Manager di PayPal in Italia. PayPal sta sperimentando in Italia un nuovo servizio che diventerà operativo per tutti nelle prossime settimane / mesi. Molto interessante, una evoluzione dei servizi di PayPal, si chiama PayPal Check-in. Che cos'è? Angelo Meregalli. Ma con PayPal check-in il cliente fondamentalmente entra in negozio e si segnala l'esercente, permettendo all'esercente di comunicargli se ci sono offerte e semplicemente aprendo il canale e quindi potendo pagare tranquillamente senza tirare fuori carte, contante o altri metodi di pagamento. L'interazione è molto veloce, molto semplice. Sulla cassa dell'esercente appare la foto del cliente, il nome con il cognome puntato, comunque nel rispetto della privacy, e l'interazione avviene semplicemente cliccando sull'immagine del cliente, che quindi abilita il pagamento e chiude la transazione. Se ho avuto un'offerta, l'ho salvata nel mio portafoglio e l'ho dedotta automaticamente dalla transazione. L'esperienza funziona perché le due parti sono geolocalizzate e quindi riescono nel raggio d'azione della geolocalizzazione a riconoscersi e a permettere questo tipo di interazione. Stiamo parlando di un sistema di pagamento digitale, un borsellino digitale che io posso utilizzare quando entro in un punto fisico, quindi in un negozio fisico. PayPal è nota e famosa per pagamenti digitali online. Che cosa significa questo cambiamento? State guardando questo già da un po' di tempo, ma questa è un'operazione concreta che state portando anche in Italia, per il momento in fase sperimentale, ma poi vedremo che cosa succederà nel futuro. Cosa sta succedendo? Ma noi vediamo il mondo evolvere attraverso la logica della connessione via internet, e quindi sempre più dispositivi che fino a ieri non erano assolutamente connessi a internet lo sono. Faccio alcuni esempi: un registratore di cassa, piuttosto che il computer con cui sempre di più molti negozi sono attrezzati, e fondamentalmente sempre di più si parla di internet delle cose, quindi vedremo sempre più oggetti connessi a internet. Avere un digital wallet, quindi un portafoglio digitalizzato nel cloud, significa poter avere accesso per il cliente a questo digital wallet in varie occasioni d'uso e permettere a un esercente di interagire e avere una richiesta di pagamento verso questa digital wallet in tanti modi. Quindi fondamentalmente, ovunque ci sia un dispositivo connesso, PayPal è in grado di chiudere una transazione, sempre nella garanzia della sicurezza per l'esercente e per il cliente. Quindi il mondo fisico, ora sempre più connesso, permette a PayPal di arrivare con soluzioni di pagamento innovative, non fisiche naturalmente, quindi niente carte, niente contante, anche al punto di vendita, con l'esperienza tutto sommato che si fa online. Le faccio una domanda sull'uso dei pagamenti digitali, sia online che in mobilità, ma immagino più online ancora, riguardo al mercato italiano. Stanno crescendo? Quanto crescono? Rimane una diffidenza degli italiani rispetto a questo tipo di pagamento? Cosa sta succedendo? Che cosa vedete voi sul mercato? Ma vediamo comunque una crescita sempre molto interessante della parte di tradizionale di e-commerce, che comunque attesa ancora in crescita a doppia cifra, intorno al 16-18% quest'anno. Una crescita molto interessante del mobile commerce, ma fondamentalmente un mercato e-commerce italiano che è tuttora indietro rispetto ad altri mercati europei e internazionali, in quanto la penetrazione dell'online o del digital commerce, diciamo, ormai sul commercio nel senso ampio è inferiore al 3% tuttora. Ci sono paesi in cui questo ormai ha raggiunto quote del 14%, comunque intorno all'8-12%. Eppure in economie simili come l'Inghilterra, la Francia o anche ovviamente la Germania e la Spagna. La lentezza di adozione delle soluzioni di commercio online o digitale sono legate un po' anche a ritardi storici del mercato italiano sul fronte delle carte elettroniche, quindi sistemi di pagamento elettronico. PayPal ha dato un'accelerazione, ma PayPal permette semplicemente di fare una transazione semplice e sicura usando poi fondamentalmente una carta di credito, una carta prepagata, una carta anche tipo un bancomat, ma soprattutto usa già sistemi di pagamento diffusi. Se questi non sono diffusi, naturalmente la gente non ha modo di pagare online. Lato esercenti vediamo anche ancora una certa diffidenza o ritrosia da parte di quelli che sono chiamati storicamente brick and mortar ad andare con politiche commerciali decise online, perché ancora non si vede la potenzialità del canale e non si vede la possibilità, e anzi si teme l'effetto di cannibalizzazione. Come dico spesso, qualcuno cannibalizzerà quelle vendite. Vediamo già in altri paesi come molti grossi diciamo esercenti con brand storici nel mondo fisico riescono a lavorare su canali digitali insieme anche ai canali fisici, in quello che per noi è un mondo omnicanale, in cui magari mi faccio spedire direttamente al punto fisico la merce, piuttosto che ordino quello che non trovo in negozio sul sito online e me lo faccio spedire o in negozio stesso o a casa addirittura. Queste possibilità, se non si hanno soluzioni di digital commerce già in piedi, non si possono ancora cogliere. Le faccio ancora una domanda sull'adozione di questi strumenti di pagamento, che valgono per l'online ma valgono e speriamo varranno sempre di più per pagare anche offline, per pagare in un negozio, per pagare qualsiasi cosa in giro per una città, per l'Italia. Io sono un grande sostenitore della moneta elettronica, ma non sono un addetto ai lavori. Lei invece, che è un addetto ai lavori, ci dice per quale motivo uno dovrebbe usare la moneta elettronica? Quali sono i grandi vantaggi dell'uso di della moneta digitale? Carte di credito, ma non solo carte di credito. Ma naturalmente lato cittadino privato e consumatore, io credo fondamentalmente che sia quella di essere molto liberi dalla necessità di portarsi dietro del contante, quindi dover prelevare, ricordarsi quanto si ha nel portafoglio o meno, e sempre di più una carta piuttosto che un conto PayPal ti permette di pagare veramente in diverse occasioni d'uso. Quindi carta permette anche, o anche PayPal, di prenotare un hotel, di prenotare un aereo, cose che semplicemente col contante non è possibile fare. Ma anche nella vita di tutti i giorni, onestamente, spesso vedo persone che rinunciano a prendere una cosa piuttosto che rimandano perché non hanno magari tutto il contante nel portafoglio, e questo secondo me cambia. Senza togliere il fatto che il contante si può perdere, può essere facilmente rubato, bisogna gestirsi comunque il resto. Io personalmente credo che le monetine siano un problema un po' per tutti, e quindi anche nella vita di tutti i giorni, banalmente, usare una carta evita il problema del centesimo o del meno, che sembra banale, ma francamente credo sia sentito da molti. Lato esercente, secondo me, tutto sta nel riconoscere che la gestione del contante ha dei costi impliciti, non chiari, non evidenti, che però sono in molti casi superiori a quello dell'accettazione con carte. E quindi il fatto che ancora una volta non devo gestire resti, la transazione è tutto sommato più veloce se uno la monitora esattamente rispetto a una transazione in contante, e fondamentalmente gli incassi sono tutti elettronici, per cui non devo poi gestire il contante, prenderlo, raccoglierlo in borsa e darlo al portavalori, portarlo magari presso la banca o andarlo a versare direttamente. Fondamentalmente questa interazione viene completamente cancellata, così come il rischio di rapine eccetera eccetera viene naturalmente annullato fondamentalmente. Adesso parliamo di turismo. Quante volte abbiamo letto o sentito che potremmo puntare molto di più nel turismo, anzi purtroppo non cogliendo le opportunità che ci vengono offerte dall'aumento della ricchezza nel mondo, dall'aumento dei ricchi soprattutto asiatici, dalla mancanza di capacità nel cogliere queste opportunità, stiamo perdendo quote nelle classifiche internazionali del turismo. E noi che siamo il paese, insomma, è inutile ripeterlo tante volte, il paese che più offre al turista in termini di cultura, di arte, di cibo e di bellezze. Bene, non siamo capaci in generale, ma soprattutto siamo abbastanza poco capaci di farlo in modo digitale. Oggi molte delle cose che si facevano anche nel mondo del turismo in maniera analogica si stanno trasformando in digitale. Altri ne hanno approfittato e hanno capito, ci sono grandi piattaforme internazionali che drenano soldi al nostro sistema turistico, e quindi spesso diciamo bisognerebbe essere capaci a investire nel turismo per attirare turisti e offrire anche in maniera digitale la nostra bella Italia. Allora, tutto no, però molte delle cose che stanno succedendo nel turismo in modo digitale ci interessano. Allora, questa settimana abbiamo parlato con Walter Magnano Sanlio, che è il fondatore di Jolly Ticket, un sito internet che si è presentato questa settimana alla stampa, che nasce su un'idea sicuramente molto semplice ma originale, perché lo sentirete tra poco, è sicuramente una idea originale che presentava alcuni problemi di carattere tecnologico che sono stati superati e che quindi possono essere presentati anche al pubblico. L'idea che sta dietro è quella di creare un'agenzia online, però le novità sono due. Una è quella di poter vincere tutto ciò che si acquista con un sistema di Instant Win, che è un'estrazione che viene in automatico ogni volta che si acquista il viaggio, e si ha la possibilità quindi di poter partire a 0 euro. Questo è un sistema studiato in Giappone, è un meccanismo, un algoritmo che i tecnici di Amadeus sono riusciti ad adattare al nostro portale. Sì, ricordiamo che Amadeus è una società spagnola che si occupa di tecnologia. Più che spagnolo, è una multinazionale. Sì, certo. Che si occupa, diciamolo, perché si non occupa, è un GDS, uno dei 4 GDS che al mondo gestiscono le prenotazioni aeree. Esatto, è uno dei grandi motori di turismo per le agenzie. L'idea è appunto quella di, con una vincita istantanea, assegnare in premio la vacanza che uno si sta per comprare. E la difficoltà che avete dovuto risolvere tecnologicamente parlando qual è? La difficoltà è stata quella di riuscire a bloccare la transazione nel momento in cui l'utente acquista il viaggio, bloccare la transazione e far partire l'Instant Win, perché ovviamente quando parte la transazione è immediato l'addebito sul conto dell'utente. Quindi è stato molto difficoltoso riuscire a bloccare questo, per qualche frazione di secondo, questo passaggio dal portale alla banca e poter far partire l'Instant Win. Quindi diciamo c'è un algoritmo che decide. C'è un algoritmo che è quello dell'Instant Win, ma la difficoltà è stato inserirlo durante la transazione, in modo da stabilire, prima che la transazione vada a buon fine, se il pagamento deve essere addebitato all'utente oppure no. Senta, si dice che, non solo si dice, insomma, è noto che su internet si vince se si riesce a farsi conoscere con un'attività di marketing molto pesante, quindi investendo molto denaro anche in pubblicità. Da questo punto di vista, che cosa farete per farvi conoscere? Esatto, noi ovviamente ci scontriamo con i colossi che attualmente esistono, e noi abbiamo deciso appunto, utilizzando il sistema dell'Instant Win, di non farci pubblicità, tranne quella iniziale che in questi giorni passerà su Sky, perché abbiamo deciso che questo denaro che ogni azienda destina alla pubblicità, noi abbiamo deciso di regalarlo agli utenti, regalando appunto i viaggi. Beh, sicuramente non saranno contenti quelli che vivono di pubblicità, però sicuramente è un'idea che è stata realizzata grazie alla tecnologia. Chiaramente non è facile spiegare quello che si è dovuto fare, ma molti dei nostri ascoltatori avranno esperienza dell'acquisto online. Quando si clicca sull'ultimo passaggio acquista, da lì scatta tutta una serie di tutto un meccanismo che è difficile da mettere in stand-by. In questo caso si è dovuto fare appunto un sistema per mettere in stand-by, per permettere all'algoritmo di calcolare la vincita. Nel caso si vinca, la transazione va in una certa direzione, quindi il cliente non paga nulla; se non si vince, il cliente paga, quindi il processo prosegue in modo normale. Bene, tutto per questa puntata di 2024. Anche in questo caso vi abbiamo offerto le nostre interviste in versione estesa ed integrale. Come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione, vi ricordo che potete comunicare con noi tramite Facebook, Twitter oppure in modo più semplice con la email. Scriveteci a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, continuate ad ascoltarci dai posti e anche nelle situazioni più strane e particolari via podcast. Ci risentiamo la prossima settimana, venerdì tra le 22 e le 23, oppure la domenica tra le 13 e le 13.30 e naturalmente sempre in podcast. Grazie ancora e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.